C'è da dire anzi prima di tutto che la manifestazione che abbiamo organizzato si concentrerà appunto sul caso Apuano, però come emblema di un modello estrattivista che abbiamo il timore che si stia affermando un po' in tutta Italia, in seguito alle nuove direttive europee sulla ricerca delle materie prime strategiche, con il quale appunto l'Europa ha cambiato un po' indirizzo a seguito anche degli sconvolgimenti, diciamo, geopolitici degli ultimi anni, e quindi che se fino a qualche anno fa l'Europa, in generale il mondo occidentale, si approcciava di trasferzione di risorse strategiche in modo tendenzialmente coloniale, quindi andando a prenderli nel Sud America, in Africa, nel sud-est asiatico, sempre di più sta cercando di andare a cercare di trovare queste materie nel mercato interno per evitare appunto che le crisi possano poi provocare dei blocchi e di rifornimenti di queste materie strategiche. Il percorso che ci ha portato alla costruzione della manifestazione nasce in realtà diversi mesi fa, intorno alla primavera, perché appunto come Atamanta organizziamo tra le nostre attività sul territorio delle escursioni, perché crediamo che sia importante portare le persone a rendersi conto, a interfacciarsi con i propri corpi, con la devastazione in corso sulle Alpi Apuane a causa dell'estrazione selvaggia, e quindi durante queste escursioni è praticamente impossibile non attraversare o non passare vicini ad un'area estratta. Circa un terzo dei sentieri di tutto il parco regionale delle Apuane passa o dentro o comunque a meno di 50 metri da un bacino estrattivo. Quindi diciamo che avevamo organizzato questa escursione attorno ad uno degli emblemi anche qui della devastazione, per cui montagna, l'altissimo, che di torno viene lavorata dalla multinazionale che si chiama Arro e che rivendica i terreni su cui sta scavando come delle proprietà. Su questo ci sono delle battaglie legali, per cui non mi sto ad entrare, ma diciamo che tutto il quadro legale delle concessioni e dei permessi all'escavazione è molto complicato e rimanda addirittura a delle leggi del 1750, quindi ci sono dibattiti in corso nelle aule dei tribunali. Solo per dire che praticamente quando abbiamo organizzato questa escursione abbiamo ricevuto due diffide dalla Arro ad attraversare quelli che sarebbero secondo lui i terreni di sua proprietà. Questa cosa è un segnale abbastanza evidente, infatti durante l'escursione ci sono ritrovati alla partenza polizia, carabinieri, la finanza, la Digos sull'imbocco del sentiero, anche per loro diciamo un po' una novità, quindi non sapevano neanche bene come approcciarsi a noi, che però comunque abbiamo fatto il nostro intervento, abbiamo condiviso con tutti i partecipanti all'escursione quello che era successo e abbiamo insieme deciso di entrare lo stesso a partire su questo sentiero, nonostante l'interruzione che era stata appositamente creata dalla ditta postando dei blocchi che dovevano impedire l'accesso. Quindi noi comunque siamo entrati e durante tutta l'escursione abbiamo rincontrato nei sentieri che attraversavano alcune strade, diciamo, carrabili, camionabili, in cui si muovono i mezzi del bacino estrattivo, siamo stati in qualche modo pedinati. Ora, questa cosa ci è sembrata molto grave, perché comunque è un po' quella dinamica di militarizzazione dei territori che è un po' una conseguenza e un presupposto del modello estrattivista, diciamo, che agisce sui territori. E quindi abbiamo pensato che sarebbe stato importante provare a coinvolgere un'associazione come il CAI, che è responsabile della sentieristica escursionistica sulle Apuane in generale in Italia, e quindi partendo dalle relazioni con delle sezioni, con le sezioni locali, abbiamo iniziato ad attivare questa assemblea in cui partecipavamo noi come Atamanta, il coordinamento ambientalista Boversigliese, un insieme di comitati e associazioni che si battono su varie questioni ambientali, e appunto le sezioni del CAI. Dopo varie assemblee siamo arrivati a elaborare questa volontà di chiamare una manifestazione, sì, prenda il caso Apuano come focus, come emblema, però appunto di una dinamica nazionale. Piano piano si sono poi aggregate anche altre realtà associative anche importanti come Arci, che appunto anche quella poi ha scalato i suoi livelli per aderire alla manifestazione. Quindi si è dato questo grande divergenza di realtà che appunto a partire da questa analisi sull'estrattivismo hanno scelto di prendere parola. Uno degli strumenti maggiori che le aziende estrattive, Confindustria, hanno per continuare diciamo lo status quo è quello di tenere in conflitto la tutela dell'ambiente con i lavoratori, e quindi nel gioco delle parti si cerca di creare questa guerra tra chi dice che questo modello non è più sostenibile e i lavoratori, che chiaramente hanno la legittimità di difendere il proprio posto di lavoro, ma non stiamo proprio lavorando perché passi il concetto che estrattivismo non è lavorare in cava, non è estrazione. Anzi, con loro si sta creando un dialogo che possa essere proprio quello della costruzione dell'alternativa, che va necessariamente condivisa con i lavoratori, e quindi di nuovo noi ribadiamo, abbiamo ribadito nella costruzione, nel lancio di questa iniziativa, che non sono i nemici i lavoratori, ma anzi, e quindi piano piano si sta riuscendo a fare questo passaggio che sul nostro territorio risulta anche abbastanza importante. Nel pomeriggio del 16 ci sarà la manifestazione vera e propria, partenza alle 2.30 dallo stadio dei Marmi di Carrara, e la giornata del 16 si concluderà con l'arrivo in piazza Alberica a fine corteo. Il 17, spinta più nostra ma che è stata comunque condivisa e insomma sono stati coinvolti anche tutti gli altri attori dell'Assemblea di Accesso alla Montagna, che è la promotrice della manifestazione, abbiamo immaginato una seconda giornata per domenica 17 di tavoli di discussione e dibattito per vedere di mettere appunto al tavolo, come dicevo un po' prima, le varie realtà che si occupano di questioni specifiche, riuscendo a cogliere i punti in comune e cercando di costruire dei ragionamenti di prospettiva.